Giovedì, seconda settimana, lodi mattutine. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili. Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira. Donaci occhi limpidi che vincano le torbide suggestioni del male. Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode. A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Prima antifona. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini, rifulgi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Rialzaci, Signore nostro Dio. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Li hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e hai riempito la terra. La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Hai esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia? La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico. Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato. Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te più non ci allontaneremo, ci farei vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Seconda antifona. Grandi cose ha compiuto il Signore. Sappiano i popoli le sue imprese. Ti ringrazio, Signore. Tu eri con me adirato, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io confiderò, non avrò mai timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. In quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi, ciò sia noto in tutta la terra. Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. Grandi cose ha compiuto il Signore, sappiano i popoli le sue imprese. Terza antifona. Esultate in Dio, nostra forza. Esultate in Dio, nostra forza. Acclamate al Dio di Giacobbe. Intonate il canto e suonate il timpano, la cetra melodiosa con l'arpa. Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa.